Anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milano, ma anche quelli di Roma e Napoli. E me ci mettiamo pure quello della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quello della Sicilia. 24 mattino. Cari ascoltatori, è venerdì, il giorno in cui si conclude la 181esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Ma la 182esima, secondo noi, secondo Carmelo Lauricella, soprattutto in regia, che sorride e dice guarda che stai attento perché potrebbe essere quella davvero decisiva. Staremo a vedere. Intanto andiamo nella rassegna stampa di 24 mattino a leggere i giornali. Le mie lunedì, le venerdì. Venerdì per la precisione 21 ottobre, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore su Draghi. Draghi rassicura sul quantitative easing, borse europee in rialzo, questo è il titolo di prima pagina. Poi sempre l'Unione Europea e la manovra in questo braccio di ferro snervante, siamo appena agli inizi. All'Unione Europea la manovra non basta, è il titolo di apertura del Corriere della Sera, mentre Repubblica è gelo tra Renzi e Unione Europea, manovra il testo in ritardo alle Camere. Anche il Messaggero, l'Europa corregge la manovra, Bruxelles prepara una lettera al governo. La Stampa invece si concentra sullo strappo di Trump negli Stati Uniti, voto USA, lo strappo di Trump che ha detto in pratica accetto il voto solo se vinco io, in una delle sue frasi che tra l'altro in America vengono prese molto sul serio, cioè vengono considerate un attacco alla democrazia non di poco conto. Per il manifesto infatti il titolo è questo, andrebbe letto alla tedesca, Trump-Truppen. No? Si gioca col nome di Trump, Trump-Truppen. Questo è il titolo del manifesto. Poi ne vedremo altri ovviamente, intanto però voglio andare già a leggere. Ecco per esempio l'apertura di Libero, voglio vederla subito perché parto da qua. Sciopero a comando. È vero, molti giornali non ne parlano, ma oggi c'è lo sciopero generale dei COBAS, indetto dai COBAS. Ora non voglio gettare nel panico, non lo so, informatevi, so che le scuole dovrebbero funzionare tutto a posto, però qualche problema, soprattutto ai mezzi di trasporto, ci sarà. E Vittorio Feltri fa in prima pagina l'editoriale un po' critico, non tanto sul diritto di sciopero. Oggi sciopero dei trasporti, aerei, treni, autobus, tram, scrive Feltri. Tutto bloccato, anche se l'adesione è limitata ai cosiddetti COBAS, che un tempo costituivano una minoranza e che oggi invece hanno in mano il pallino, poiché i sindacati classici, CGIL, CISL e UIL, si sono dati una calmata e contano meno degli scalmanati autonomi. Scrive Feltri, i lavoratori spesso hanno ragione di protestare, i loro contratti non vengono rinnovati, rimangono congelati per anni, penalizzando i salari, rendendoli insufficienti per campare decentemente. La verità è questa, negarla sarebbe un delitto. Provate a campare con una paga misera. Arriva il momento che la miseria incattivisce gli animi, li esaspera, induce che in bolletta esplodere. E fin qui c'è poco da discettare. Accettiamo le astensioni dal lavoro come ineluttabili. In fondo lo sciopero è l'unica arma potente di cui essi dispongono. Ma ci sono altri tipi di manifestazione, per esempio quella di oggi, organizzata a scopi politici, ossia in appoggio a coloro che intendono votare no al prossimo referendum sulle riforme costituzionali. Ed è qui, cioè, la motivazione ovviamente non è solo questa, ma tra le motivazioni dello sciopero di oggi c'è appunto la difesa e l'attuazione della Costituzione e il no al referendum. E Vittorio Feltri, insomma, si chiede, ma votate chi volete, ma non danneggiate gli altri cittadini. E effettivamente non posso che sottoscrivere, cioè sei per non modificare la Costituzione, e questo nella legittima espressione del voto è assolutamente sacrosanto, uno vota come ti pare, e mi fermi i treni per questo, e mi fermi gli autobus, e mi fermi e mi togli i servizi a me cittadino perché sei per la difesa della Costituzione, ma chi se ne frega, cioè vai il 4 dicembre, vota come coscienza ti dice di votare e dammi il treno, ecco, la dico brutalmente così. Pensate, pendolari, che oggi magari voi siete per il sì al referendum e però oggi il vostro treno non passerà perché il treno è per il no. Pensate questo e mettetevi di buon umore in questo venerdì. Ovviamente lo so benissimo che non è l'unica motivazione dello sciopero di oggi. C'è anche la questione dei salari, eccetera. Ma una delle motivazioni è questa. E va bene, salto invece sulla prima pagina della Verità, perché c'è un'inchiesta di Giacomo Amadori che forse creerà qualche problema al presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Carlo Tavecchio. Gli strani affari di Tavecchio, il signor del calcio italiano. Giacomo Amadori scrive sulla Verità in prima pagina: grazie alle assicurazioni dei tesserati, e sono tante, perché le assicurazioni si pensa che siano 1.300.000 i giocatori in Italia, non pensate solo alla Serie A, ma insomma tutte le squadre delle serie minori, 70.000 squadre, giocano in tutto 700.000 partite a stagione, pensate che torta dal punto di vista delle assicurazioni, visto che ognuno deve presentarla dopo certificato medico, insomma le assicurazioni per tutti i giocatori del settore. Ebbene, grazie alle assicurazioni dei tesserati, un ex arbitro di Serie A, Bruno Di Cola, racconta la Verità, si è arricchito e ha portato i soldi in paradisi fiscali. E ci sono ora tre testimoni che accusano, dicendo: abbiamo visto dare parte di quel denaro al presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Carlo Tavecchio. Per la Verità, lo stesso Tavecchio viene raggiunto da Giacomo Amadori e nega tutto. Non ho seguito. Lei conosce il signor Bruno Di Cola, cioè colui che fa queste assicurazioni? Sì, è un nostro collaboratore, lo è sempre stato, dice Tavecchio. Però è tutto un po' un non ricordo. Lei ha conosciuto l'ex genero di Di Cola? Io vedo un miliardo di gente. Quello che le posso dire è questo: sono arrivato nel 2000 e ho mandato via una compagnia, la Reale Mutua Assicurazioni, perché c'erano stati problemi grossissimi. Abbiamo fatto una gara e ha vinto Carige. A questo punto lei lo sa che ci sono stati problemi dal punto di vista politico. Dopo, nel 2006, abbiamo dato un incarico a questa Marsh per non avere più problemi di ricerca. È un Tavecchio, insomma, che questa inchiesta, che è molto dettagliata, la respinge punto su punto, dicendo: io non so nulla. Comunque, gli strani affari del padrone del calcio italiano con il business dell'assicurazione alla Lega Dilettanti, che ha fruttato decine di milioni finiti in paradisi fiscali, e ci sono tre testimoni che dicono: questi soldi, parte di questi soldi sono finiti anche nelle tasche di Tavecchio. Vediamo, lui smentisce, vedremo se ci saranno seguiti e documenti in più su questo. Voglio invece andare su Repubblica, perché Repubblica intervista con Fabio Tonacci, un italiano che si trova in questo momento a Erbil, dunque nel nord dell'Iraq, o nel Kurdistan se volete, e questo italiano, che si chiama Alex Pineschi, sta combattendo a fianco dei Peshmerga, 33 anni, nato e cresciuto alla Spezia, la battaglia contro l'ISIS. Non chiamatemi mercenario, io l'italiano in guerra per Mosul, intervistato da Repubblica, ex alpino, sta con i curdi, così li aiuto e aiuto i Peshmerga. Sono pagato dal governatorato di Kirkuk per organizzare l'addestramento del personale all'interno delle basi, e quando esco da lì vado volontariamente in missione con le unità impegnate sul campo. Insomma, sta facendo la guerra vera e propria. E perché lo fa? In 2 anni ho conosciuto 200-300 uomini, sono diventati miei amici e la loro causa è anche la mia. Difendono la propria regione autonoma, proteggono donne e bambini dagli invasori dello Stato Islamico. Ho deciso di andare in Iraq nel 2014, avevo capito che i Peshmerga non erano formatissimi. Ho comprato un biglietto di sola andata per Sulaimania e mi sono presentato ai comandi militari curdi, all'inizio diffidenti, poi mi hanno fatto addestrare un piccolo team. E risponde anche alla domanda: ma lei non rischia di essere incriminato una volta dovesse tornare in Italia? Il decreto antiterrorismo dice che non si può andare a combattere a fianco di organizzazioni terroristiche e i Peshmerga non sono terroristi. Sono tranquillo, faccio tutto in trasparenza e non ho fissato una data di rientro in Italia. Ho preso un impegno, lo voglio portare a termine. Alex, l'ex alpino con i curdi, così aiuto i Peshmerga in guerra, intervistato da Repubblica, e dice: non chiamatemi mercenario, credo a questa causa. E invece io, di fronte a questi articoli, verrebbe proprio da dire: ma intanto tenete le mani sul volante se siete alla guida, mi verrebbe da dire se siete in treno, mani sui barcioli, ma non so se siete in treno, non so se è passato, se il vostro treno è per il sì e per il no ed è passato oggi o sciopera. Comunque, la questione è questa. Quando leggo questi articoli verrebbe da dire, ma perché a certa gente viene vietato Facebook a chi non ha, non so, 14 anni, 15 anni, non so qual è il limite. Ma bisognerebbe fare proprio un test a tutti. Un test a tutti sulla possibilità di avere accesso a Facebook. Eccolo qui. Che muoiano tutti, che brucino vivi, ammazzateli, che affondino tutti. Non potete lasciarli morire? Questi ed altri commenti del genere pubblicati, secondo il Corriere della Sera, scrive Andrea Pasqualetto, da una professoressa d'inglese del liceo classico Marco Polo di Venezia. Si chiama Fiorenza Pontini. In questa sequela di post furiosi, violenti, xenofobi, non sono passati inosservati a qualche docente dell'Istituto Lagunare, anche perché si intervalla una foto di Benito Mussolini, indirizzi alla Boldrini, di insulti, Matteo Renzi, Brugnaro, cioè il sindaco di Venezia. La rabbia sale improvvisa di fronte a migranti musulmani, morissero tutti, bruciateli vivi, ammazzateli, e avanti con ferocia ogni salvataggio di uomini, donne, bambini. Eccolo qua, sul Corriere della Sera, pagina 18, che muoiano tutti, le frasi sui profughi di una professoressa al liceo. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Alessandro Milan, il giornalista che mi fa più stare della giornata. Ciao da Anastasia. Ma dai, straordinaria, però piccola bambina non dovresti imparare queste brutte parole da me. Zare, va bene, Carmelo c'ha il dito, ma che bello, che bel messaggio, ma grazie bimba mia, ti mando un piccolo abbraccino e allora forza, adesso fila via a scuola. Allora, cari ascoltatori, il braccio di ferro tra l'Unione Europea e l'Italia ogni anno poi è così, sui conti ovviamente Bruxelles controlla il rapporto deficit-PIL che sia giusto, che rispetti i parametri. Renzi ieri ancora ha usato la voce grossa e ha detto il problema è nei confronti del mondo è l'Europa, non i nostri conti. Insomma, sono tattiche, sono strategie. Dietro le quinte cosa raccontano in retroscena? Federico Fubini sul Corriere della Sera dice troppo deficit con la legge di bilancio, Juncker vuole che l'Italia la cambi. Questa è la sostanza. A meno di improvvisa inversione di rotta, la Commissione europea chiederà all'Italia di cambiare la legge di stabilità. Jean-Claude Juncker resta convinto che occorra cooperare col governo di Roma, non pretenderà stravolgimenti, secondo osservatori di Bruxelles, ma è convinto che servano meno misure di bilancio in deficit, qualche precauzione in più per evitare che il debito pubblico salga per il decimo anno consecutivo, anche nel 2017. Sono giornate dunque intense nei palazzi, dove funzionari della Direzione Economia e Finanza e la squadra dei commissari Valdis, Dombrovskis e Pierre Moscovici sono al lavoro su decine di bozze di bilancio nazionali, tra cui anche quello dell'Italia. Secondo Repubblica, che da giorni dice che più che la cooperazione, usa toni un po' più duri Repubblica, è gelo tra Renzi e Juncker. Il fiscal compact deve saltare. Questa è la frase che viene attribuita in questo faccia a faccia. Nessun chiarimento tra il Premier e il Presidente di Commissione. Dietro le quinte i tecnici lavorano a un compromesso, ma c'è il rischio bocciatura dopo il referendum. Questo nel retroscena di Alberto D'Argenio, che trovate a pagina 7 di Repubblica. Tra l'altro, sulla questione della manovra, ovviamente si capiscono sempre di più i dettagli, perché dato di fatto che il testo non è ancora arrivato al Quirinale, per dire, e il Fatto Quotidiano lo fa notare, nella manovra fantasma si aprono buchi miliardari, al Colle non hanno ancora visto il testo fiscale perché non esiste, eppure l'ha dato per urgente. Nelle tabelle del Tesoro, rispetto alle slide di Renzi, mancherà gettito dallo sconto sulle cartelle di Equitalia e dai condoni. Ecco, la questione di Equitalia, degli sconti, del via le sanzioni, via le more, via l'aggio, abbassiamo l'aggio, questo è ancora tutto da scrivere. E tra l'altro c'è un problema anche sulla abolizione dell'Agenzia delle Entrate, o meglio di Equitalia. Perché, come scrive Valentina Conte su Repubblica, pagina 6, Equitalia nessuna fusione con l'Agenzia delle Entrate. Il Quirinale è appunto ancora in attesa del decreto. Equitalia cambia nome ma non casa. È troppo difficile inglobarla nell'Agenzia delle Entrate. Ci sono vincoli costituzionali, vincoli contrattuali, forse anche vincoli di buonsenso, scrive Repubblica. Così l'ultima soluzione accarezzata dal governo è quella di trasformare Equitalia in una partecipata pubblica, magari al 100% proprio dall'agenzia, ora invece al 51% dell'agenzia e il 49% dell'INPS. Una società per azioni, come ora, nel perimetro fiscale, come ora, libera di mantenere i più vantaggiosi contratti bancari, come ora, ai suoi 7.917 dipendenti. D'altro canto, questo è uno dei problemi, che la fusione tra Equitalia e Agenzia delle Entrate non è affatto un gioco da ragazzi. Il personale è proprio questo, 7.917 dipendenti di Equitalia, l'1,18%, cioè 94 di questi sono dirigenti, entrati senza concorso, contrattualizzati come bancari, a fronte di 39.612 colleghi dell'Agenzia delle Entrate, quasi tutti vincitori di una selezione pubblica e con stipendi molto più bassi. Un funzionario laureato dell'agenzia guadagna 30-34 mila euro lordi, 1.800 al mese. Il corrispondente Equitalia guadagna il doppio, senza parlare dei vertici. Quindi c'è anche un problema proprio di come fondere due realtà che hanno contratti diversi e poi appunto anche Agenzia delle Entrate entrati con concorso. Equitalia, c'è tutto il problema dei promossi, i concorsi che poi non sono stati validi, e insomma c'è anche una problematica notevole. Poi c'è il grande dilemma, giustamente oggi Marco Mobile e Giovanni Parente sul Sole 24 Ore fanno un po' di lumi, e io attendevo anch'io a capire, per capire se sono stato fesso a pagare tutto e subito, sulla questione delle multe, le multe, le cartelle di Equitalia che arrivano per le multe arretrate, quelle del codice, le violazioni del codice della strada. Che succede a queste? C'è la sanatoria anche lì sulle sanzioni? Sulla sanatoria decidono i comuni. Multe sì, multe no. Alla fine del giro di roulette tra i tecnici dell'amministrazione finanziaria di Palazzo Chigi, la pallina si sarebbe fermata sul sì. Dunque siamo ancora ai condizionali, cioè le sanzioni amministrative per le violazioni del codice della strada recapitate da Equitalia a casa degli automobilisti potranno essere rottamate. Per aderire alla definitiva agevolata, alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015, i cittadini dovranno presentare un'istanza entro 90 giorni dall'entrata in vigore della procedura. Tutto questo però pare con l'espresso e deliberato consenso e adesione alla procedura da parte dei comuni. Comunque oggi il Sole 24 Ore su questo è molto preciso, per la cornice di precisione che si può avere in questo momento, non è che è ancora tutto chiaro. Come non è tutto chiarissimo se si voterà al referendum, nel senso che pendono ancora dei ricorsi, per il momento però è chiaro che il quesito è salvo. Il TAR ha respinto dicendo non possiamo giudicare noi, in pratica, quindi inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione, il ricorso sulla legittimità del quesito presentato da avvocati, dal senatore Crimi del Movimento 5 Stelle, dalla senatrice De Petris di Sinistra Italiana. Si chiedeva di sospendere gli effetti del decreto presidenziale che ha indetto la consultazione. Il TAR ha respinto il ricorso, diciamo, è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione, cioè non siamo noi del TAR a dover decidere. Quindi questo è il primo ricorso. Il 27 ottobre il Tribunale di Milano invece si pronuncerà sulla istanza dell'ex Presidente della Corte Costituzionale Onida, dunque pende ancora tra una settimana un'altra decisione. Non è detto dunque che si farà il referendum, ma finito quello forse ci siamo, se viene respinto anche quel ricorso. Almeno si saprà che il 4 dicembre si voterà e su quel testo, e poi andrà come andrà. Caro Mauro Meazza, come stai? Beh, benissimo, grazie Alessandro, grazie. Tu stai bene? Benissimo. Oh, molto bene. Allora, ti posso così tranquillamente segnalare alcune letture per la giornata dal Sole 24 Ore? Già vedo che ti sei appassionato alla manovra, mi permetto di consigliarti macchine, anche soprattutto uno sguardo, sì, uno sguardo all'ape, naturalmente, perché sai che l'ape, diciamo, è un po' un caposaldo, un architrave della, di questa manovra Ventura, e non nel senso d'allenatore, Ventura, cioè che arriverà. L'ape perché potrà essere stesa al part-time, cioè si potrà anche prendere l'anticipo e mantenere il part-time, ma ti spiega tutto, naturalmente, Davide Colombo, da par suo, sulle pagine del Sole 24 Ore, già hai segnalato per le multe, per Equitalia, Equitalia si profila una sorta di passaggio in due tempi, si chiuderà dal 1 luglio, e poi il contante, la voluntary disclosure, che è ancora invece un punto molto delicato, quanto sarà da pagare per riportare in chiaro quel contante che ti sei dimenticato di comunicare al fisco, ti sei dimenticato di comunicare, può capitare, può capitare. Ma invece, invece anche dovresti fare attenzione nelle pagine di Imprese e Territori al fatto che l'Italia ha sottoscritto l'adesione al Tribunale Europeo dei Brevetti. È una notizia importante, lo consiglierei anche come articolo da meditazione, quasi quasi. Sta nelle pagine di Imprese e Territori, che tu leggerai scrupolosamente in questo caso. Sempre nelle stesse pagine, sai che ci occupiamo sempre di problemi anche del lavoro e dei vari settori. Ecco, c'è la notizia che purtroppo si sono rotte le trattative per il rinnovo del contratto degli assicurativi, e sono, mi pare, 39.000 persone che così restano senza le trattative. Si vedrà se poi ci saranno anche delle agitazioni o degli scioperi. Del TAR e del referendum hai già detto tu, quindi de oxatis, come dicevano i nostri padri antichi. Invece ti inviterei a prendere il diario e segnare la data del 21 aprile 2017. Eccolo qua, 21 aprile, giorno dopo il compleanno di mia figlia. Sì. Oh, vabbè, allora guarda, sei anche facilitato a ricordartelo, perché è la data entro la quale le regioni dovranno varare il regolamento edilizio unico. Ogni tanto l'abbiamo scritto sul Sole 24 Ore, l'abbiamo scritto, sai, sul Sole 24 Ore, che in una regione il balcone si conta in un modo, in un'altra si conta in un altro. Beh, insomma, no, c'è l'accordo, c'è poco da ridere, è scritto su norme e tributi, religiosamente tu leggerai e apprenderai. Il termine è quello lì che ti ho detto. L'hai segnato? Sì, sì. Non è che poi arriviamo a quella data lì, non ce lo ricordiamo, facciamo anche cattiva figura. No, è importante che se non se lo dimentichino loro, vedremo. Beh, insomma, noi cominciamo a segnarcelo, così siamo preparati. In ultimo, ma solo perché il tempo fugge, naturalmente ci devo anche fare gli auguri sentiti per la partita di domani, naturalmente. Grandi auguri dopo la nostra imperiosa direi prestazione. Sì, beh, imperiosa, trionfale adesso mi sembra esagerato, però imperiosa prestazione di ieri sera, quindi tanti auguri per domani, naturalmente. E ti voglio segnalare che nel tuo condominio potrebbero anche farci una pizzeria al primo piano. Addirittura. Perché? Sì, può capitare, perché in un condominio è successo, una pizzeria aveva aperto anche al primo piano, i condomini si sono lagnati, ma la Cassazione ha detto, ma se non scrivete chiaro nel regolamento condominiale, e quindi tutto questo e molto altro, naturalmente martedì prossimo al Condominio Day. Ti sei segnato che martedì prossimo il Condominio Day. Bravissimo. E allora, caro Alessandro, cari ascoltatori, buona domenica e soprattutto traffico! Alessandro Milan, il giornalista che fa impazzire mia mamma. Va bene, alle 7:50 minuti. Allora, la politica, vi segnalo velocemente, perché abbiamo pochissimo spazio sempre, il fatto che Beppe Grillo dovrebbe essere lunedì in Parlamento, perché il Movimento 5 Stelle ha fatto questa proposta di tagliare del 50% l'indennità base di parlamentari, e così anche i consiglieri regionali, che non potranno avere assegni superiori a quelli stabiliti per i parlamentari. E lunedì dovrebbe approdare in aula approderà in aula questa proposta di legge, prima firmataria Roberta Lombardi, che dice a Repubblica gli stipendi sono da tagliare, ma c'è l'accusa del Movimento 5 Stelle dicendo vedrete che ci respingeranno la legge, andiamo tutti in Parlamento per assistere a questa vergogna, dicono dal 5 Stelle. E mentre a destra si parla di scissione, ne parleremo con Matteo Salvini alle 8:20, nostro ospite, perché Forza Italia sarebbe a un passo dalla scissione, nel senso che alcuni dicono, il nucleo storico di Forza Italia, andiamo via, e si parla di una Lega Italia, cioè mettersi con Salvini. Staremo a vedere, lo chiederemo anche allo stesso Salvini. La cronaca da giorni si parla di questa vicenda terribile, cioè una madre morta di parto con due feti a Catania. Perché se ne parla? Perché i giornali ieri hanno riportato questa vicenda, morta di parto perché il medico che è intervenuto era obiettore di coscienza. Dall'ospedale dicono è falsa questa storia dell'obiezione di coscienza. Avvenire attacca come titolo di prima pagina. Caccia all'obiettore, la tragedia di Catania sfruttata per propaganda. Si indaga, ma la libertà di coscienza non c'entra. In realtà c'è un'intervista anche al marito di questa donna morta, che intervistato da Repubblica, pagina 19, per una pagina intera dice: lo ha detto a me personalmente, alle 8 di sera, mentre mia moglie urlava dal dolore da quasi 12 ore. Quando ho chiesto al medico di aiutarla e di fare qualcosa, mi ha risposto: sono un obiettore di coscienza, non posso intervenire fino a quando c'è un battito di vita. Così Francesco Castro, incontrato da Repubblica nello studio del suo avvocato, dice: cosa ne dovevo sapere io che quel medico era obiettore? Chi me lo doveva dire se non lui? Lo ha detto a me, lo ha ridetto ai genitori di Valentina due volte, una delle quali fuori dalla sala a travaglio, lo ha detto ad altre persone che non conosco e che erano lì, non so chi siano, ma chiedo loro di farsi avanti e confermare quello che dico. In ogni caso, per gli inquirenti non sarà difficile trovarli. Poi racconto ovviamente tutte quelle ore culminate in questa tragedia. Dall'ospedale dicono che il fatto che siano obiettori i medici lì non c'entra nulla con la tragedia avvenuta per una improvvisa infezione. Certo, tutti si concentrano i giornali sulla dinamica, sulle cause, nessuno le può sapere, ci sarà un'inchiesta eccetera, ci sono 12 medici indagati. A me pare abbastanza un'altra la domanda centrale, e cioè: è o no uno scandalo, come hanno detto i vertici dell'ospedale di Catania, che in quell'ospedale tutti i medici, tutti, siano obiettori di coscienza? È o no uno scandalo? Questa è la domanda centrale. Poi come sia andata questa vicenda non spetta certo a trasmissioni radiofoniche o dibattiti sui giornali stabilirlo, ci saranno i tribunali, ma mi sembra che quella sia la domanda centrale. In tutto questo l'attualità internazionale è molto dedicata anche a Donald Trump. L'ultima frase, guardate che in America dire non so se accetto la vittoria di Hillary Clinton, non so se accetterò l'esito del voto dell'8 novembre, è una frase gravissima, perché in America, come faccio vedere anche sulla mia diretta sul profilo Facebook, in America è consuetudine, una volta che uno dei due vince, che l'altro riconosca pubblicamente la vittoria. Ricordate Al Gore, nonostante le contestazioni, la Corte Suprema disse: non sono d'accordo, ma Bush è il mio presidente. Questa cosa non è solo un atto così teatrale, è un atto che ha una profonda valenza di rispetto della democrazia, e quindi in America non si discute d'altro che del fatto che Trump con questa frase metta in dubbio il senso della democrazia, della democraticità del voto. E quindi grande scandalo, qualcuno dice sta alzando i toni perché ormai i sondaggi lo vedono in picchiata, staremo a vedere l'8 novembre, comunque vedremo che succede. Nessuna notizia di Schiaparelli su Marte, pare che i razzi non abbiano funzionato e quindi si deve essere schiantata. Comunque grandi polemiche anche su questo, ma vabbè, non c'è tempo per leggere, le leggete e le trovate sui giornali. Intanto la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, a pagina 17 di Libero. Sappiate che se il vostro cane vi ignora, Libero spiega per un'intera pagina che è normale, perché gli animali pensano con la loro testa e quindi capiscono quando gli ordini sono inutili. Tradotto, il cane capisce se siete dei cretini. Ma vi rendete conto? Ma chi se ne frega?